Fratelli e sorelle, sono Giovanni Paolo II, devo benedire tutti voi di Assemblea Regionale Arciragazzi Sicilia. Ciao a tutti, saluto da Nora di Arciragazzi di Vicenza, volevo salutare il mio comparellino. Si può notare l'Assemblea Regionale, ci sono tutti i pezzi da 90, qui non russo. Allora, un messaggio sull'Assemblea Regionale. No, una bella esperienza, per cosa ci sono un po' di fanghi, però insomma ci adeguiamo. Devo stare che ci sono gli stivali per i fanghi. Vabbè, il fango è forte però, trabocca anche all'interno degli stivali. Cos'è l'Arciragazzi per te? È un viaggio senza passaporto. Buona maggiore, attenti! Riposo. Ecco, come noi intervistiamo altro pezzo da 90, ma in versione femminile. Benvenuti, sono contenta di avervi qui oggi e sono contenta di vedere che la mia truppa cresce bene in forma. Cos'è l'Arciragazzi per te? Un diversivo. Un detersivo? Sì, mi sono distrutto un labbro. Per il resto, ciao Cristian, lo sai che ti amo. Ciao, anch'io. Io sono Cristian, tu come ti chiami? Io mi chiamo Katia, di Villa Abate. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Un messaggio sull'Assemblea Regionale. Forza ragazzi. Un'altra domanda, come vede la Sicilia nel Mediterraneo nel 2010? Sott'acqua. Va bene, grazie, qui non ti ho quando venire a chiamare. Ma rispetto a come la Sicilia oggi la vedo molto male. Quindi sicuramente abbiamo l'esigenza di incominciare a prepararla questa Sicilia per il 2010. Cos'è la Sicilia, ragazzi, per te? Non posso dire un pezzo della mia vita, e né tantomeno posso dire un pezzo della mia vita. Sicuramente è un pezzo importantissimo della mia vita. L'Assemblea Regionale mi sembra una cosa bella che emerge, che c'è molto entusiasmo, c'è molta vita e c'è molta voglia di divertirsi innanzitutto. E questo credo che sono gli auspici per un programma futuro. Grazie, Re. Ma io diciamo, Galino, un pezzino va. Sono a tagliare questa stronza.